Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misura e su rigore, campione d'Italia. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. Questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Masone, linea all'Olimpico. E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia. Nel 1973-74 la squadra di Giorgio Chinaglia e Tommaso Maestrelli. Poi nel 99-2000 il gruppo di campioni guidati da Sven-Goran Eriksson in panchina, che acciuffò il tricolore all'ultima giornata, anzi oltre viene da dire, battendo in casa la Regina per 3-0, mentre oltre un'ora dopo la Juventus, fino a quel punto capolista, veniva battuta sotto l'acquazzone a Perugia, coi tifosi biancocelesti a far festa sul prato dell'Olimpico, dove avevano atteso la conclusione della gara tra umbri e bianconeri a lungo sospesa proprio per il diluvio. Momenti epici del nostro calcio e della storia della Lazio, che oggi torna a rivendicare un altro tricolore, e sarebbe il terzo, come tre sono quelli dei cugini giallorossi. Uno scudetto inghiottito più di un secolo fa, sbranato dalla Grande Guerra e riassegnato poi solo a tavolino, al Genoa. È questa la storia che vogliamo raccontarvi oggi a Olimpia, a partire da uno dei grandi protagonisti di quello che è, a tutt'oggi, il secondo e ultimo tricolore biancoceleste, e chissà non possa essere seguito, per decisione della Federcalcio, da un terzo. Fabrizio Ravanelli, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera, grazie. Fabrizio, incredibile quello scudetto, vero? La vostra rimonta, il successo sulla Regina, il diluvio su Perugia e la sconfitta della Juventus sotto l'acquazzone, mentre voi Roma aspettavate in campo sul prato dell'Olimpico il verdetto finale. Sì, perché in pratica noi la partita nostra era già finita, poi quello che è successo ormai è a conoscenza di tutti, quel dubifragio che è venuto giù, che non ha permesso alla Juventus e Perugia di continuare a giocare in diretta con le altre squadre, quindi c'è stato uno stop di quasi un'ora e mezza, e noi abbiamo vissuto il post partita consapevoli che se il Perugia avesse mantenuto il risultato del 1-0 saremmo stati campioni d'Italia, e quindi così è stato, quindi è stata una grande soddisfazione per noi. Davvero un epilogo imprevedibile. Sì, è una cosa particolare, penso che rimarrà la storia, che nessuna squadra è capitato quello che è capitato alla Lazio, però l'importante è che poi alla fine sia stata la Lazio a gioire, e che credo che poi alla fine dei conti la Lazio si è meritato quello scudetto, perché era la squadra più forte del campionato, lo ha dimostrato durante la stagione intera, non solo nel campionato ma anche in Coppa Italia, vincendo la Coppa Italia in finale contro l'Inter a Milano. Quindi la Lazio in quell'anno aveva una delle squadre più forti a livello europeo in senso assoluto. Ecco, vogliamo ricordare alcuni dei grandi campioni che insieme a te componevano quella squadra. A iniziare da Marchegiani, Anesta, Mihajlovic, Veron, Contenzao, Mancini, Boxic, Salas, Stankovic, quindi volevo dire c'erano fiori di giocatori. Credo che quella Lazio ha rappresentato veramente l'apoteosi del calcio, e quindi è stata una squadra formidabile, perché aveva veramente 25 nazionali, aveva Simeone, aveva Sensini, aveva Fernando Couto, era una squadra veramente dove Eriksson poteva chiudere gli occhi e tirare su, nel, come si dice, nel cosiddetto bussolotto 11 giocatori e avrebbe vinto il campionato. Emozione doppia per te, immagino, quel titolo, per te perugino, e che avevi vinto già tutto proprio con la maglia della Juventus. Per me è stato un intreccio veramente formidabile, perché Perugia, la mia città, mi ha permesso comunque di vincere lo scudetto, perché ha giocato contro la mia squadra del cuore, dove io sono sempre stato tifoso, che è la Juventus. A Perugia, nella mia città dove vivo e dove sono cresciuto calcisticamente, e vestivo la maglia della Lazio vincendo lo scudetto con la Lazio, quindi un qualcosa di anomalo, ma che poi alla fine credo che per me sia stata una gioia indescrivibile, perché poter vincere scudetti con la Juventus e con la Lazio è qualcosa di veramente molto bello. Anche una rivincita, per te, che avevi lasciato a malincuore i colori bianconeri. No, vendetta sportiva no, perché io la Juventus l'ho amata, la amo e la amo tuttora, però io in quel frangente ero un giocatore della Lazio, ero pagato dalla Lazio, era il mio lavoro e il mio lavoro devo cercarlo di fare nel migliore modo possibile, e quindi mi richiedeva di essere il più performante possibile, vincere per la mia società, e quindi vincere il campionato con la Lazio è stata una grande soddisfazione. Che poi dopo alla fine ho tolto lo scudetto alla Juventus, questo mi potrebbe dispiacere fino a un certo punto, perché io in quel momento rappresentavo i colori bianco-celeste e la cosa più importante era vincere per la Lazio. Vincere per la Lazio, hai detto. Ecco, caro Fabrizio, vincere per quella maglia era anche il desiderio di quei ragazzi che in una domenica di fine maggio del 1915 si ritrovarono in pochi istanti a passare dai campi di gioco a quelli di battaglia, chiamati dalla storia nelle trincee della Grande Guerra. Mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. A ricostruire questa pagina di storia sportiva e nazionale ci aiuta un amico e collega, giornalista, storico dello sport e direttore editoriale della Società Italiana di Storia dello Sport. Marco Impiglia, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ecco Marco, spiegaci cosa accadde quel 23 maggio 1915 per il nostro calcio che stava per assegnare lo scudetto. Come sapete, l'Italia entrò in guerra contro l'Austria-Ungheria, uno degli imperi centrali, e c'erano da giocare praticamente l'ultima giornata del campionato nordista, perché bisogna ricordare appunto che all'epoca la Federcalcio, che tra l'altro sarà costituita con questo nome sulle scene della Federazione Italiana Football da pochi anni, era governata soprattutto da dirigenti, da uomini del nord, molti dei quali avevano fatto parte della Federazione Ginnastica Italiana. Erano stati proprio questi uomini a voler cambiare il nome da football in calcio, perché volevano italianizzare il più possibile il gioco. Siamo quindi in un momento storico in cui il calcio italiano è a decisa trazione nordista rispetto a quello del sud, giusto? Sì, era poca cosa a confronto del calcio del nord. Non perché proprio, diciamo, che il calcio del nord fosse partito prima, perché in realtà qualche germoglio era spuntato anche nel sud, se pensiamo insomma agli inglesi che giocavano a Palermo, a Napoli, e anche ai preticelli britannici che al venerabile collegio di Roma, vicino a Piazza Farnese, pure loro giocavano al calcio addirittura nel 1892. Però ricordiamo che comunque era stato il nord a portare avanti il gioco, e era stata costituita la Federazione Italiana Football nel 1898, e Torino, Milano, insomma Genova erano le capitali del gioco, e ancora lo erano alla vigilia della Grande Guerra, per cui c'erano questi tre campionati che in realtà erano un campionato di Serie A e due campionati di Serie C, perché pochi mettono in rilievo questo fatto, secondo me, essenziale, e cioè che il campionato del Nord era giocato da squadre considerate di prima categoria, mentre invece il campionato dei due campionati del Centro-Sud, insomma, erano giocati a squadre di terza categoria. Quindi in realtà la Lazio era di terza categoria, non era alla pari del Genoa, del Torino, del Milan, dell'Inter, che andarono a fare questo girone finale nella primavera del 1915. È in questo scenario quindi che l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale, lasciando inevitabilmente da parte, come vedremo, in sospeso uno scudetto che fa discutere ancora oggi, più di un secolo dopo. Allora Fabrizio Ravanelli, Marco Impiglia, prendiamoci qualche istante di pausa, poi ancora qui a Olimpia per continuare a raccontare insieme questa storia di gol e trincee. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo una squadra fortissimi. Olimpia, miti e verità dello sport. Il capitan della compagnia e l'è ferito, sta per morire, che manda dire suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. È il 23 maggio 1915. L'Italia entra nel primo conflitto mondiale. La notizia, drammatica, sorprende anche il mondo dello sport e arriva sui campi di calcio proprio in una giornata di campionato. La corsa verso il titolo si trasforma in un istante in corsa alle armi e alle trincee. Il campionato, allora con una formula su base regionale, viene sospeso e quello scudetto sarà assegnato invece solo dopo, a tavolino, nel dopoguerra appunto, al Genoa. Ma oggi, a oltre 100 anni di distanza, a richiederne la coassegnazione è anche la Lazio. Una vicenda che stiamo ricostruendo con i nostri due ospiti, Fabrizio Ravanelli, grande ex di Lazio Juventus, e Marco Impiglia, storico dello sport. Ecco Marco, dicevamo che se nel girone sud erano emerse Lazio e Napoli, a nord la situazione era molto più equilibrata quando arrivò la chiamata alle armi. Sì, nel girone erano più equilibrate perché erano emerse praticamente due squadre sorpresa, cioè l'Internazionale Milano e il Torino Football Club, che avevano eliminato le due vincenti praticamente dei campionati precedenti, cioè il Casale e la Provercelli. C'era da giocare praticamente a Genova la partita a Ponte Carrega, no? Il più campo del Genova Cricket Football Club, lo scontro con, se non sbaglio, il Torino, che stava due punti sotto. Era l'ultima partita del gironcino. Mentre a Milano c'era il derby Inter-Milan. Anche l'Inter, battendo i milanisti, avrebbe potuto raggiungere un Genoa eventualmente battuto dal Torino. Tra l'altro c'è da ricordare una cosa che mise già in rilievo Vittorio Pozzo, che era il direttore tecnico di quel Torino del 1915. C'è da ricordare che il Torino aveva battuto 6-0, 6-1, mi pare, all'andata, due settimane prima, il Genoa. Quindi, insomma, era una partita abbastanza imprevedibile nei suoi esiti. Il Genoa di William Garbutt poteva essere battuto da quel Torino di Vittorio Pozzo. Tutto questo in un campionato che aveva appunto una formula particolare, quindi su base regionale e a trazione nordista, appunto, anche per motivi logistici ed economici. Sì, ovviamente la geopolitica c'entra qualcosa, le spese c'entra moltissimo, ma come ti ho detto era evidente che le squadre del nord avevano una cifra tecnica nettamente superiore a quelle del sud, che erano poche tra l'altro, perché soltanto praticamente tre regioni parteciparono a quel campionato meridionale del centro, cioè la Toscana, il Lazio e la Campania. La Campania poi era soltanto Napoli, il Lazio era soltanto Roma. A Napoli c'erano solo due squadre, Internazionale e Naples. A Roma ce n'erano 4-5. E la Lazio e il Roman vinsero praticamente il campionato regionale, anzi in realtà il Roman davanti alla Lazio, i rossogialli del Roma, no? Precursori della Associazione Sportiva Roma, per cui si trovavano a competere con i vincitori del campionato toscano, che erano Sporting Pisa e il Lucca Football Club. Accadde che praticamente la Lazio ribaltò quello che era stato il decorso del campionato regionale, per cui batté i rossogialli del Roma Football Club, non perché fosse più forte la squadra biancoceleste, ma semplicemente perché i rossogialli avevano molte difficoltà a mettere su la squadra nei momenti importanti, perché avevano stranieri e anche molti studenti, insomma situazioni di questo tipo, per cui la Lazio si trovò ad essere praticamente campione del centro. E avrebbe dovuto fare la partita per definire la squadra campione del centro-sud contro la vincente della sfida napoletana, se non che anche lì per motivi vari, adesso è anche un po' complicato riassumere, praticamente si fece una partita sola che vinse l'Internazionale Napoli, che però non portò una seconda partita, e per cui la Lazio si poteva praticamente considerare la squadra campione del centro-sud. La guerra fu più forte di tutto e tutti. Partite sospese e scudetto assegnato solo nel dopoguerra proprio al Genoa, giusto? Sì, questo è un po' il garbuglio, perché quella domenica del 23 maggio praticamente i due arbitri dovevano appunto arbitrare queste due partite di Torino, di Milano e di Genoa, che erano, mi ricordo, Tonino Scamone e Giovanni Mauro. Praticamente lessero questo comunicato della Federcalcio per cui le partite erano annullate perché si era entrati in guerra. Genoa abbozzò, diciamo così, la presa, anche perché si pensava in realtà in quei momenti che la guerra sarebbe durata poco. Questo pure è un fatto da ricordare, no? E se invece poi durò 4 anni. Per cui quando ripresero un po' le cose nel 1919, la Federcalcio, che era comunque e sempre a trazione nordista, in un iter abbastanza complesso e che è stato anche in parte ricostruito, quindi praticamente nel dicembre 1921 fu assegnato questo, con delle medaglie ufficialmente, a un ristorante di Genova, questo scudetto del 1915. Ecco, oggi la Lazio è tornata a chiedere la coassegnazione di quel titolo, in quanto si ritiene, per alcuni aspetti ha ragione, squadra leader del Sud Italia, ma non presa in considerazione quando il titolo venne attribuito a guerra finita. Ecco, a tuo parere è una richiesta legittima? Oggi bisognerebbe, se proprio lo si vuole recuperare questa storia e portarla fino in fondo, bisognerebbe andare a fare uno spareggio a 4, perché diciamo che questa cosa qui va valutata sulla base di una giustizia che secondo me dovrebbe prendere in considerazione un fatto preciso. L'Internazionale Napoli è fuori gioco, anch'essa doveva giocare una partita con la Lazio, è fuori gioco perché questa società sparì nel 1926. Nacque l'Associazione Calcio Napoli, che però a sua volta poi è fallita, come sappiamo, sotto Ferlaino, per cui non c'è, diciamo, un legame diretto da quell'Internazionale Napoli e la società sportiva Napoli Calcio di oggi. Poi, secondo fatto, sì, la Lazio meriterebbe, diciamo, di entrare in gioco, d'accordo, però bisogna considerare il Genoa, e non solo il Genoa, ma anche l'Inter, che poteva, battendo il Milan, andare a pari punti col Genoa, e il Torino, battendo nella partita diretta il Genoa, poteva anch'esso, insomma, raggiungerlo. Per cui in realtà, se proprio volessimo andare a fare una ripetizione, insomma, del finale di quel campionato così bizzarro, si dovrebbe, a mio parere, mettere su un quadrangolare da queste attuali 4 società che hanno una filiazione diretta con quelle che disputarono quel campionato, cioè il Genoa, l'Inter, Torino e la Lazio. Ti chiedo invece, che eredità lasciano oggi quei calciatori che in quegli anni diedero vita al calcio, al football capitolino? Beh, filo rosso non c'è, filo giallo rosso neanche, filo bianco celeste neppure, se parliamo proprio di filiazione di quelle società a quelle attuali che dominano il calcio capitolino. Però certamente la passione che muoveva questi calciatori dell'epoca era molto diversa da quella che muove i professionisti di oggi. Si trattava di dilettanti al 100%, puro spirito decurpertiniano, si trattava di giovani, insomma, che facevano attività fisica e giocavano al calcio perché si divertivano e basta. Insomma, non c'era neanche rimborso spese per questi ragazzi che giocavano all'Association Football, che tra l'altro era uno sport pochissimo conosciuto, spesso confuso col football rugby, di cui si sapeva pochissimo in Italia all'epoca, soprattutto a Roma e nel centro-sud. Quindi direi che la filiazione diretta è quella del sentimento, della passione per lo sport puro, che anima, insomma, non i tifosi, certo, perché purtroppo i tifosi hanno un loro speciale filtro, ma tutti quei ragazzi che ancora oggi fanno calcio a Roma in maniera dilettantistica e per l'amore dello sport in se stesso. Se un mattino tu verrai fino in cima alle montagne, troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue, Fabrizio Ravanelli, abbiamo ricostruito, grazie a Marco Impiglia, la storia di quel controverso scudetto del 1915. Che effetto ti fa sapere oggi che un terzo scudetto bianco-celeste potrebbe arrivare ora a più di un secolo di distanza? Fa un'idea strana, è bello, sarà bello, però credo che lo scudetto è sempre bello averlo nella storia. Però per me è un po', come si dice, è difficile poter dare un giudizio, però credo che se la società con la sua bravura, con la sua professionalità di Lotito e di tutto il club se stesso vuole acquisire questo scudetto, ben venga, lo festeggeremo tutti insieme. Ti chiedo ancora, pensi ci sia un qualche legame, un collegamento tra quei pionieri di allora e la Lazio di oggi? Ma io credo che comunque il tifoso, la curva nord può unire queste due grandi squadre, perché il tifoso laziale è il 12° giocatore e credo che questa forza del tifoso laziale possa essere, come si dice, un trend union tra il club a quell'epoca e il club di oggi. Credo che possa rappresentare, come si dice, la lazialità vera di oggi e spero, mi auguro, anche quella di una volta. Fabrizio Ravanelli, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.